Eh? Fate qualcosa per salvare la razza umana. Sì, sì, non c'è siamo dubbio. Tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate, sì, di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con questa storia dei matrimoni, dell'adozione, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punt e basta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di Codesto, fanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Più avanti, non subito, non è ancora questo, ma per salvare il mondo dovremo tornare a coltivare la terra e produrci il cibo. Avremo più tempo libero, più serenità, non ci saranno più ingorghi sulle strade, non ci sarà quello che ti suona perché non parti subito al semaforo. Questa follia finirà, la gente si inginocchierà a coltivare la terra. E se domani pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non può arrivare mai. Senti questa cosa di Grillo, Parenzo, senti questa cosa qua, è stupenda, senti questa cosa qua, con le fogne scaldi le case, sentila, è fatta apposta per te, sentila. L'acqua piovana, la raccogli, la pompi nella cisterna, che fa il primo risciacquo nella lavanderia, dove lavi, fa il primo risciacquo, quell'acqua lì, senza detersivi che corrodono, quell'acqua lì va nel gabinetto. Quando tiri l'acqua va quell'acqua lì, va dentro, va in una fune dove viene depurata, dove recuperi l'acqua e il calore. In Danimarca con le fogne scaldano le case. Com'è che fa? Ma è evidente. A casa mia l'altro giorno ho cominciato a defecare in tutta la casa per lavare i vestiti. Si lavano i vestiti con il letame. In Germania lo fanno. Mia moglie è impazzita, è andata via di casa dicendo che c'era un puzzo di merda pazzesco, ma non capisce. Ma in Germania lo fanno. Lavano i vestiti con le feci, perché è più sano. Troppe galline rispondono. Poi dice le pompe di calore. Mi hanno detto basta pornografia. Nessuno sa cosa sono le pompe di calore. Questo Grillo in un comizio ieri, Spendevano 90.000 euro all'anno di gasolio, di riscaldamento. Adesso spendono 5.000 euro di gasolio solo con le coibentazioni, solo con i materiali, solo con i tripli vetri. Dai da lavorare a centinaia di piccole imprese, falegnami, idraulici, pompe di calore. Non sanno un cazzo. Quando ho parlato con uno di questi qui, non ci sono le pompe di calore, ma ha detto basta pornografia. Ma allora, è così. È sempre un comico straordinario, non c'è niente da fare. Ma lui stesso lo ha detto che prima o poi tornerà a fare il comico, per guadagnare un po' di soldi. Lo sta già facendo. Sì, lo fa continuamente. Continua però a farlo sempre giocando con gli italiani. Ma quindi, che giocando con gli italiani? Tanto dice sempre le stesse cose. Senti queste, vi diciamo. Tutte le papere piangono. E hanno fatto finta di dare la colpa a me. Avevo bisogno di un capro espiatorio, perché quello dice di no. E dobbiamo, in amore della nostra patria, andare a governare insieme a lui, perché il movimento dice di no. E oltre a dire di no, il movimento vi dice di andare a fanculo a tutti. Ecco che cosa vi dice il movimento. Non è neanche uno scherzo. C'è però il mitico Oscar Farinetti, il proprietario di Italy, imprenditore, sì, italiano, che oggi dalla Merlino, da Mirta Merlino, area che tira sulla 7, cosa ha detto? Che io ho aperto senza licenze 7-8 Italy, una cosa strepitosa. Questa rivoluzione dobbiamo incominciarla noi, freghiamocene. Io non le nascondo che dei miei 21 Italy che c'è in Italia, 7-8 li ho aperti senza licenza, perché non me la davano. Per le burocrazie io ho aperto e ho invitato i sindaci di inaugurazione. Non sono per adesione, non sono calendato che le becchiamoci un po' di avvisi di garanzia. ho invitato pure i sindaci all'inaugurazione, ho aperto senza licenze, questo può accadere in Italia, vi rendete conto? Io faccio tanto di cappello a Farinetti, chi l'ha messo in quel posto secondo me lo sapevano i sindaci, però siccome è Farinetti e Italy e non è magari un poveraccio che deve aprire un negozio con una licenza, è riuscito a farlo lo stesso. Troppe galline rispondono. Invitare la Santanchè è folle, senti. Decidere di invitare la Santanchè a parlare per 3 ore di rubi è una follia. In una trasmissione che si chiama Servizio Pubblico. Cioè, quello è un servizio contro il pubblico. Si invita una persona che non ha la minima idea di come si possa raddrizzare questo paese in questo momento a parlare di quelle robe lì. E farle fare anche bella figura. Noi invece la Santanchè l'abbiamo invitata e ci ha detto che sputerebbe anzi, i lavoratori dovrebbero sputare in faccia in groia perché ha preso prima l'aspettativa, poi è andato in ferie, eccetera, eccetera. Quando l'altro giorno ho visto in groia che era alla FIOM e vedere in mezzo ai lavoratori, no, ma io le dico da lavoratore, scusi, in groia uno che si era messo in aspettativa per fare una campagna elettorale, benissimo, è tornato a lavorare ad Aosta, si è messo in ferie il giorno dopo. Noi siamo in un momento dove la crisi fa male, morde le aziende e i lavoratori e non li hanno sputati in faccia quei lavoratori. Va bene, siamo qui 800 24 00 24, siamo con il mio candidato preferito a Roma, anche se non voto a Roma e dunque non sono in conflitto di interessi, voto a Milano, Alfio Marchini, sì? Buonasera. Buonasera, però avrà sicuramente qualche parente a Roma. Beh, sì, ce l'ho, però non so allora, quello che votano. Faccia non so. Propaganda, come no? E che ne so quello che votano, non lo so, vediamo, adesso proverò. Buonasera Marchini. Come andiamo? Beh, non c'è male, candidato sindaco con le liste di Alfio Marchini, sindaco che cambiamo con Roma. Allora Marchini, io voglio sapere una cosa, lei farebbe aprire un negozio senza licenza come ha fatto Farinetti, che dice che ma ha aperto... Io non so neanche se è vero, credo, voglio immaginare che sia una provocazione che lui ha fatto. Può darsi. La sensazione che ho avuto è che lui abbia voluto fare una provocazione rispetto alla lentezza della pubblica amministrazione in dare risposte. Ma cioè, però, se fosse vero, sarebbe comprensibile cioè, il fatto che un imprenditore si rompe le scatole delle lentezze, ma no? Bisogna sempre rispettare le procedure. Ovvio, se no vale tutto e diventa un inferno. Cioè, già abbiamo un paese abbastanza complesso nel rispetto delle regole. Se vale anche il meccanismo che vale tutto, veramente diventa l'anarchia più assoluta. Guarda, Farinetti è un uomo intelligente e serio, quindi sicuramente avrà fatto una provocazione. Cioè, lei non crede che uno possa aprire una catena come quella di Italy in un posto, non ha specificato dove, senza licenza? E senza che neanche il sindaco se ne accorge, dubito ovviamente. Mi sembra abbastanza irrealistico. Senta, ma lei quanto paga di IMU, Marchini? Io non so esattamente, però... Pronto? Sì, la sento. Sento pezzotto. Guardi, esattamente, non so perché noi abbiamo non molte parti, diciamo, gran parte delle nostre diciamo, attività che sono messe dentro a dei veicoli per cui di volta in volta viene fatto a fine anno, penso che sia in questo momento devono fare tutti i vari concorsi. No, ma lei sulla prima casa, che ne so, quanto paga? No, io non so cosa è intestata a me. Ah, non è tutta intestata a società? No. Che? No, oppure ai figli, oppure no, io non ho, oppure alla moglie, non ho niente. Ma è giusto pagare l'IMU sulla prima casa? Io credo che l'IMU sia, guarda, io... La verità è che questa è una tassa che è nata male, cresciuta male e finita ancora peggio. Dunque è giusto adesso sospenderla? Assolutamente sì, ma è giusto anche se... Abolirla? Ma sì, ma anche su altri tipi di riflessioni. Ma lei pensa, ad esempio, le case in costruzione, che oggi che l'edilizia è un problema gravissimo, e lo dico non è perché riguarda me, perché non è un tema che io ho, però oggettivamente è come se tu tassi di fatto il magazzino. Allora, un conto che tu tassi qualcosa quando la stai per vendere, un conto che tu tassi qualche cosa che invece... Dunque, secondo lei è giusto abolire l'IMU sulla prima casa? Assolutamente sì. Ma lo sai che c'è stato un endorsement da parte di Venditti nei confronti di Marchini? Parenzo, tu non sai niente, figurati se lo sai. Beh, no, sì, ma credo che siano amici da tempo col grande Antonello. Lo coinvolgerà. Antonello che ha il cuore di Roma. A proposito di questo, ma voi sapete, adesso vi racconterò un aneddoto. L'ultima volta che io venivo da voi, che è la prima e l'ultima, diciamo. Ma come è l'ultima? Essa è la seconda, per cui che prima e l'ultima. No, allora. Dopo questa, ma non ce ne fu un'altra. E io dissi, scherzo, in modo scherzoso, che avevo in mente di fare Totti con la delega alla cultura, sindaco. Allora io vi giuro che è venuto da me a trovarmi un noto onorevole di cui non faccio il nome, di lunga data, la mattina presto, con aria molto seria, mi ha detto no, però Alfio, stai attento a fare queste brutte figure. Dico perché? No, guarda, mi hanno tempestato di messaggini perché ho fatto una scivolata. Dico scusa, qual è questa scivolata? Ma come fai a dire Totti vice sindaco? Era serio. non sto scherzando, era serio. Io l'ho guardato, pensavo che era uno scherzo. Ma questa è la forza della zanzara, caro Marchini, abbia pazienza. Cioè, tutto no, ma che qui... la forza della zanzara? È la follia della nostra classe politica. Ma come puoi pensare che io dico una roba del genere? No, no, poi sai, peggio, hai detto pure con la delega alla cultura. A quel punto, va bene, lascia stare, è così. Senta, Marchini, ma come va a finire? Lei è romanista, no? Come va a finire il derby domenica prossima? Adesso mi sia sincero, non faccia bipartisan, mi dica il risultato, no, così. Io non so. Faccio una previsione, su, facciamo una previsione. No, la faccio perché come si dice, una porta sfiga, però è ovvio che io, insomma, come spero che vada è assolutamente chiaro, dirlo non ci penso proprio. Ma no, 2-0, 3-1, io sono dalla parte opposta. Ma non a bocca queste provocazioni, manco morto, ma non ci penso proprio. Tu guarda dentro tutte le regioni. E come sotto lezioni lei dice vince la Roma 3-1, che ne so. No, buonanotte. Io dico che spero con tutto il cuore, ma ovviamente. Vabbè, è chiaro. Tifoso, è chiaro. Ben lungi da se vince la Lazio che fa? Niente. Lutto nazionale. Nazionale 4 giorni. Lutto cittadino 4 giorni. Assolutamente sì. Bandiera mezz'asta, un disastro. Beh, adesso non la prenderanno bene i laziali questa cosa. Ma eh? No, ma i laziali gente sei, guarda. Se c'è una cosa che è chiara, io penso che un laziale vero, se solamente mi sentisse fare un po' l'ipocrita che dice no, ma sono contento, basta che sia bel calcio, eccetera, penso che lì sì che non mi voterebbe. Sì, questo mai. È vero, questo è vero. Questo è vero, non sono ipocrita, ti farò Roma, spero che vinca la Roma, se perde 4 giorni di lutto cittadino. Parenzo, che vuoi? No, voglio capire, ma questo però la realtà è che la garanzia di Marchini, adesso lo dico così, un po' scherzando, un po' no, è che è talmente ricco che non ha bisogno di rubare da sindaco. Ma non è un. Ma lei non deve, no, non deve aver paura di essere ricco. Lei è. Votate per me perché sono miliardario e non vi rubo. Scusi, è bellissima, una cosa stupenda, o no? No, io credo che sia una cosa diversa, adesso, a parte scherzi, io dico sempre questo qua, stiamo anche in tono scherzoso, io quando vado in giro per Roma, eccetera, ancora oggi mi rinfacciano che il fratello di mio nonno vendette... Come no, anche Venditti l'ha detto, sì, Capello, Spinosi e Landini, sì. Perfetto, comunque noi duriamo in genere delle generazioni, io vorrei vedere che i miei figli oppure i miei nipoti gli possono rinfacciare fra qualche anno che hanno avuto un padre sindaco che non ha mai... Ma lei la ricomprerebbe la Roma? No, insomma, noi fu fatto un patto d'onore interno della famiglia, mai più squadra di calcio. Mai più. Non mi molesti il moschito. Non mi molesti il moschito. Non mi molesti il moschito. Caro Parenzo, mentre noi non ci vergogniamo per niente di guadagnare divertendoci, Marchini non vuole dire che in realtà la sua ricchezza, tra virgolette, è una garanzia del fatto che non ruberà se diventerà sindaco di Roma, Marchini, le dico questo. A proposito di questo, non c'entra nulla. Io siccome oggi purtroppo ho corso da una parte all'altra, non ho visto. Come al solito. Che evoluzione c'è stata rispetto a questa norma che dovrebbe impedire la possibilità dei movimenti di partecipare al... Il PD dice che la ritira, ma in realtà la Finocchiaro no, cioè Zanda dice di sì, Finocchiaro no, vabbè, insomma ancora, lei è sbagliata questa legge? Tutto aperto. Sì, anzi, ma mi sorprende molto che la Finocchiaro, che è una donna molto intelligente, molto in gamba, non colga che in questo momento, e lo dico anche io in questa fase, una cosa ho colto, la voglia di partecipazione della gente nella politica. Dunque è una cosa contro Grillo questa roba qua. Ma non è, questo secondo me è proprio un errore. Questo non deve essere fatto, non è questo il tempo di chiudere i recinti, bisogna aprire, bisogna aiutare la gente a che si coinvolga nella politica. Questo Senta, ma Berlusconi secondo lei è ineleggibile? Ma guardi, io quando una persona che ormai è conosciuta in largo da 20 anni raccoglie milioni di voti, secondo me il problema neanche si pone. Sì, no, ma io la penso come lei su questo qua. Cioè, non è che lui è uno sconosciuto. Però uno dice le norme sono le norme. Cioè, sì, d'accordo, però siccome noi abbiamo una Costituzione che dice che il popolo è sovrano, nel momento in cui il popolo, non tre persone, milioni di persone, conoscendo perfettamente tutto di Berlusconi, perché si conosce tutto, nel bene e nel male, io non ho mai votato, ma ho grande rispetto verso chi in modo assolutamente libero ma lo vota. E non è che tu puoi dire a milioni di persone che sbagliano, no? Cioè, questo mi sembra un punto serio, secondo me. E poi anche questa norma. Insomma, non credo che l'elemento di garanzia sia non la organizzazione di partito. Berlusconi non è una dimostrazione, è un partito, però di fatto è che decide, per cui non è che la garanzia si dovrebbe estendere. Io oggi ho fatto un tweet che recitava più o meno così, adesso non per citarmi, ma insomma per dire una cosa. Il PD propone la ineleggibilità di Berlusconi, o qualcuno del PD. La norma blocca movimenti. Beh, insomma, vuole gareggiare da solo, insomma, no? Alla no, fine. Ma soprattutto dopo si offendono quando uno li critica. È veramente come sperare contro Magari. Ma lei spera che Renzi diventi il candidato leader del Partito Democratico? No, o no? Io quello che guardi, io lei sa che come dire, storicamente voglio bene la tradizione di quel partito. Beh, però quello sì, che ho visto anche a Roma, quello che ho visto anche a Roma è che c'è uno scollamento con la realtà delle persone, no? Sì. Per cui anche per esempio, in un ballottaggio eventuale, io spero che lei sia eletto sindaco, però lasci perdere. Bravo, un ballottaggio eventuale Alemanno Marino. No, lei chi vota? Guarda, questa stanza, grazie della domanda. Lei l'ha già detto una volta, però sono passati 20 giorni. Ma, no, io voglio capire in modo chiaro, no? L'elezione a doppio turno è un'elezione per cui al primo turno si è liberi di votare chi vuole, anzi c'è anche il voto disgiunto, cioè uno del PD. Vabbè, lei dice votate me e poi votate un partito che volete, vabbè, d'accordo. Poi al secondo turno noi dobbiamo capire che i cittadini non sono più dei, come dire, delle persone che sentono la vita come c'era il vecchio PC o la vecchia Democrazia Cristiana. Il cittadino è libero. Se vota la persona, vota, questo d'accordo. No, ma anche al secondo turno, se lei oggi mi vota e poi dopo io disgraziatamente non vado al secondo turno, indipendentemente di quello che sia la mia raccomandazione di voto, lei vota per chi crede. Però lei la farà questa raccomandazione o no? Io credo che secondo me dovrò valutare molto bene e ascoltare molto bene quello che le persone hanno come movimento, la voglia che venga. Cioè per lei pari sono Alemanno e Marino se dovessero andare al ballottaggio? No, vengono da due storie diverse, non tanto le persone. Cioè è possibile che lei dia libertà di voto? Cioè dico ai miei elettori di fare come gli pare, è possibile? Io valuterò con loro, sicuramente vengo da una storia e le storie non si rinnegano, però ciò non toglie che io sono molto critico con Marino, con la campagna che ha portato avanti, con la polemica sterile e fessa che fa continuamente dicendo questa roba qua. Sì, per cui non ha ancora deciso se dare l'appoggio. Diciamo una cosa, io continuo a dire, lo ripeto, che chi mi vota a me ha poi la libertà di poter fare quello che vuole. Vabbè, quello è chiaro, quello comunque ce l'ha, quello comunque ce l'ha. Rispetto, ho grandissimo rispetto del voto e grandissimo rispetto della maturità dei cittadini. Senta, ma il fatto che non si sia dimesso, il fatto che non si sia dimesso ancora Marino dal Senato è una furbata oppure no? Perché lui dice. Se vuole quello che io penso, siccome lei sa che io dico quello che penso, assolutamente è una cosa che chiunque altro se fatto una roba del genere avrebbero detto. Cioè secondo lui vuole rimanere aspettare come va a finire, no, secondo io lei? Prendo atto che lui dice che domani dovrebbe votazione, eccetera, eccetera. Sicuramente una cosa che è partita nel mese di aprile, secondo me è stato proprio il vizio di origine. Cioè se tu ti candidi a fare il senatore a Torino di un partito, dopodiché uno, no, ma lui sta facendo il furbo su questa storia, questa è la domanda. Diciamo che sicuramente non verrà ricordato come esempio di limpidezza, di coerenza e di, come dire, di coerenza anche di comportamento. Ma lei crede che voglia aspettare l'esito delle elezioni per dimettersi o no dal Senato, sì o no? Non voglio neanche immaginare neanche immaginare che se uno attaccato ai 20.000 euro che comunque è percepito fino ad oggi, non voglio neanche pensare una bassezza del però genere. A pensare male, come diceva Andreotti, a pensare male? No, più che a pensare male, sicuramente secondo me ha perso l'occasione per dare un segno assolutamente. Che c'è, Parenzo? Però voglio capire se questo, dopo questo Dorden di Venditti, perché non lo fa assessore ai grandi eventi? Beh, Venditti potrebbe essere buono, no? No, Venditti, no, Venditti. Alla cultura? No. Vice sindaco. No. Senta, ma è giusto chiudere la curva? Lui deve dettare la linea politica proprio, cioè proprio è l'intelligenza. Il consigliere occulto, diciamo. No, è quello che dà proprio la linea del respiro programmatico dei prossimi 5 anni. Senta, ma è giusto, 30 secondi, è chiudere la curva della Roma per razzismo, secondo lei? Come è stato deciso? Mi dica la verità. Questo è un tema serio. Lo so che è serio. È un tema molto serio. Però abbiamo 10 secondi, 15 secondi. Sì o no? Uno deve anche rispondere. Sì, è giusto oppure no? Il tema è che nella curva non ci sono tutte quante persone. Ma è giusto chiuderla per i buchi che sono stati fatti? Io credo che sia giusto. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria del letto che mi graffia tutto. Cosa ti devo fare? l'acqua piovana, la raccogli, la pompi nella cisterna che fa il primo risciacquo nella lavanderia, dove lavi, fa il primo risciacquo, quell'acqua lì senza detersivi che corrodono, quell'acqua lì va nel gabinetto, quando tiri l'acqua va quell'acqua lì, va dentro, va in una fogna dove viene depurata, dove recuperi l'acqua e il calore. In Danimarca con le fogne scaldano le case. Scaldano le case. Hai capito, Parenzo, come fanno? Scaldano le case in Danimarca. Ma è normale, ma soltanto un cretino come Cruciani non lo sa. Si scalda così. A casa mia c'è un secchio dove tutti devono defecare lì dentro. I bambini. Beh, non viene più nessuno a casa mia ormai, non capisco perché, ma li ho cacciati via. Ho messo tutto sul web. Tutto sul web. Mia moglie, io andavo a raccogliere le feci di mia moglie quando era in bagno. Lei si arrabbiava perché era dentro la sua intimità del bagno, io entravo con la telecamera, dietro c'era pure Casaleggio, gli dicevo Gian Roberto entra, dicevo no, ma c'è tua moglie, dicevo entra. Mia moglie urlava, io riprendevo mentre lei defecava, raccoglievo le feci, le mettevo nel tubo di scappamento della macchina, al posto della benzina, si è rotto tutto, ma in Germania lo fanno. Occhio che stiamo degenerando, eh. Questo è sicuro. Lo scrittore francese Dominique Venner, ex esponente di estrema destra, si è sparato in bocca davanti a Notre Dame per fare un gesto simbolico e spettacolare contro le nozze omosessuali. Allora, ce ne faremo una ragione. Diciamo. Come ce ne faremo una ragione? No, no, no, dico con tutto rispetto per una persona che si è suicidata, scrittore di estrema destra. Non mi sembra che sei commosso, non mi sembra che sei rimasto colpito, diciamo la verità. Diciamo, ho il diritto di. Evidentemente, o era uno squilibrio, o diciamo è impazzito, poverino, e quindi massimo rispetto perché sì, se ha avuto. E questo è probabile perché uno così. Uno che si spara ha dei disturbi, quindi andava curato. Quindi se andava curato, massima. Dopodiché. Vedendo il personaggio, la testata di stima della signora Le Pen, che proprio oggi ha mandato, non posso versare lacrime di fronte a. Cioè, voglio dire, sai chi mi ha ricordato? Chi? Un signore che nel 1945, sì. C'era un signore, diciamo, tanti anni fa, sì, sì. Che il 30 aprile del 45, in un bunker a Berlino, nel 45, un signore. Si è sparato assieme alla sua amante e moglie, signora Brown. Ma addirittura Venner come Hitler, dai, su. No, mi ricordo, ho detto, no, mi ricordo. Comunque, aveva scritto sul suo blog, ci vorrà certamente un gesto nuovo, spettacolare e simbolico per scuotere la sonnolenza, scrollare le coscienze anestetizzate e risvegliare la memoria delle nostre origini. Tutto questo contro la legge a favore delle coppie omosessuali. Allora, delle due l'una, o è matto, perché uno non è che si può sparare perché è stata introdotta la legge sulle coppie omosessuali, sul matrimonio gay, non è che si può sparare, o è matto, oppure non lo so, oppure appunto titoli del TG3. Buonasera a tutti e adesso i titoli del TG3 di Bersani. Un tornado distrugge un sobborgo di Oklahoma, decine di morti, molti bambini nelle scuole. Obama promette non vi lasceremo soli. Letta al Senato alla vigilia del vertice di Bruxelles, Europa così com'è non basta, sulla crescita bisogna far seguire alle parole i fatti. Rinviata la nomina del presidente della giunta per le elezioni, scontro sull'ineleggibilità di Berlusconi, il PDL avverte se passa salta il governo. E bufera sulla proposta del PDL di dimezzare le pene per il concorso esterno in associazione mafiosa. Coro di No, Schifani assicura, la ritiriamo. Rapine con bombe molotov in una gioielleria a Milano, un comando colpisce commesse a raffa il bottino, per coprire la fuga esplose altre molotov, due feriti. A Roma centinaia di minori stranieri obbligati a controlli sull'età fuggono dai centri d'accoglienza per non finire nel CIE ed essere espulsi. Al Festival di Cannes la grande bellezza di Paolo Sorrentino, visionario il ritratto della cinica Roma di oggi, commozione per le lacrime di Michael Douglas, tornato al cinema dopo aver vinto un tumore. Io ti ordino, in nome del giudice dei vivi e dei morti, di uscire da questa serva di Dio! È il potere, l'acqua santa. L'acqua santa! È il potere di Cristo che ti espelle. Ti espelle! Si parla molto, cari ascoltatori, che siete nei camion, in taxi o non so dove, a casa con i vostri amici, con la vostra moglie, con la vostra amante, con la vostra fidanzata. Si parla molto di esorcisti. Dopo questa discussa preghiera, questo discusso gesto del Papa, alcuni l'hanno interpretato come un esorcismo, altri come una semplice preghiera. La discussione è aperta, si parla molto degli esorcisti. Vi faccio ascoltare padre Ildebrando di Fulvio dell'abbazia di Casamari. Se avete problemi con vostra moglie o con vostro marito, attenzione, potrebbe essere il demonio. Accade anche in quelle che sono le infestazioni negli ambienti, esatto, no? Esatto. Quindi lampadine che si spengono, televisori, c'è sempre elettricità in mezzo. Il letto, la camera, da lei, soprattutto per i coniugi, no? Ecco, prende proprio la parte più intima, la parte più, diremo noi casarizia, ma ecco, l'intimità di due coniugi, così, la camera da letto, che a un certo momento disturba il sonno, ma disturba diciamo il clima che si crea tra i due di distensione. Hai capito? Se tra moglie e marito c'è qualcosa che non va, potrebbe essere il demonio. Dice padre Ildebrando di Fulvio. Magari semplicemente uno che ha fatto le corna all'altro, quale demonio? Oppure non scopano più, non lo so. Spilli e trecce demoniache nel materasso, senti. Verificate sempre nei cuscini e nei materassi, cioè cosa ci si può trovare di fronte a che cosa quando si aprono i cuscini o materassi, se c'è un problema ovviamente diabolico o di questa natura. Sì, sì. Ecco, in quei casi là si consiglia, perché si manifestano anche delle forme, non so, trecce o spilli, altre cose che rendono il sonno impossibile, insomma, ecco, uno non riesce a... Ma scusa, ma ti pare che se a un certo punto le cose vanno male io apro il materasso per vedere se ci sono degli spilli o delle trecce? Parenzo, no, aiutami tu! No, voglio dire, il rischio sai qual è? Che apri, torni a casa, sei un po' incazzato, non è il demonio, sei semplicemente incazzato, hai il sospetto che tua moglie ti metta le corna, apri il materasso e magari quello che trovi sono le mutande di un altro, allora lì non è il demonio, ti parte il matto semplicemente, cioè è l'unica cosa. E il consiglio che invece è bruciare tutto. E cosa deve fare con una persona se li dovesse trovare? Viene da lei? Sì. Lei li esorcizza anche gli oggetti? Sì, anche una forma, una preghiera che riesca a indebolire, a diciamo a nullificare questa roba. Però la cosa che si consiglia di più, bruciare tutto e finito, sperando che tutto termini lì. Bruciare tutto! Dunque, se le cose vanno male, a un certo punto bruciate tutto, cuscini, materassi. Fate un enorme falò! Un enorme falò in giardino! Ma non puoi diffondere queste credenze. Ma adesso è padre Ildebrando! È padre Ildebrando! Berlusconi mi ha copiato la battuta, quella su il PD vuole eliminare me e il 5 Stelle vuole vincere da solo. Senti. Presidente, il PD propone una legge che escluderebbe di fatto i grillini dalle prossime elezioni, e come movimento, chiaramente. Lei di questo cosa pensa? Beh, sono venute fuori delle ipotesi abbastanza divertenti. Mi sembra che qualcuno abbia portato avanti l'ipotesi di una ineleggibilità del sottoscritto dopo 20 anni di voti di milioni di elettori italiani, e dall'altra parte addirittura la ineleggibilità del Movimento 5 Stelle, che è votato, benché sia un movimento di cui si può dire, e io ne sono convinto, tutto il peggio possibile, da milioni di italiani. Beh, questo qualcuno, devo dire che è un genio, perché ha eliminato Berlusconi e il Popolo della Libertà, eliminato Grillo e il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico correrebbe da solo. Mi domando dove e perché l'hanno tenuto nascosto fino adesso. Vabbè, ma ha copiato, che dici? Io da ieri che lo sostengo. Ma ha copiato. Sì, però è molto più divertente, piuttosto che sentire Berlusconi, sentire il signor Ildebrando. Il signor Ildebrando è più di debatta contro Berlusconi. Francesco da Modena, Francesco da Modena. È sì. Morta la politica, sì, la politica è morta. Ildebrando. Francesco da Modena, buonasera. Voglio solo Ildebrando, siete morti. Francesco, dica. Buonasera. Vada. Io dico che è oggettivo che esista una legge ancora in vigore rende ineleggibile non solo Berlusconi, sì, ma a tutti coloro che posseggono una concessione dallo Stato. Sì, va bene Francesco, però è una legge del 57. No, scusa. Per 20 anni nessuno ha detto nulla, non è che adesso uno si può svegliare dicendo Berlusconi è ineleggibile. Ma è una buffonata. La legge. Io posso pensare tutto il male possibile di Berlusconi, i suoi errori, eccetera, eccetera. Ma non ha senso questa roba legge. Qui. Ma la legge, a parte che bisogna vedere, perché comunque non è sicura questa cosa qui. In ogni caso. No, la legge è sicura. Ma quale sicura? Ci sono ottimi costituzionalisti, ottimi giuristi. No, non è sicuro che l'interpretazione vada verso l'ineleggibilità di Berlusconi. Ci sono fior di costituzionalisti e giuristi che dicono il contrario. Per cui questo. Comunque, per carità, ognuno è libero di dire quello che vuole. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Non me moleste moschito. Why don't you go home? Non me moleste moschito. Let me eat my burrito. Non me moleste moschito. Why don't you go home? Perché oggi, con quello che stiamo soffrendo, un lavoratore che non guadagna 1200 euro al mese va a manifestare con i lavoratori e il suo esempio è aspettativa e ferie. Vergogna. Al di là di tutto quello che potremmo dire. Non me moleste moschito. La Santanchè sputare in faccia a Ingroia, un lavoratore dovrebbe sputare in faccia a Ingroia. Gentilini, la pena di morte per Cabobo con l'iniezione. La pena di morte, quella, io sono dell'avviso una iniezione letale, hai capito? Perché la morte bisogna darla anche lentamente. Ma vedi, queste sono idee che sento echeggiare quando vado in giro in tutta l'Alta Italia. Beh, oddio, adesso uno va in giro per l'Alta Italia, non è che sente echeggiare la richiesta di pena di morte per il signor Cabobo. Sento echeggiare, ma come si permette? Ma però è bellissimo, sento echeggiare. Hai capito? Poi dice, beh, hai capito? Dice delle cose terribili con quel tono vagamente mussoliniano, vagamente. Beh, ma le pompe di calore? Ne vogliamo parlare delle pompe di calore di... Le pompe di calore di Grillo, sì, le pompe di calore, ti prego, le pompe di calore. Spendevano 90.000 euro all'anno di gasolio, di riscaldamento, adesso spendono 5.000 euro di gasolio solo con le coibentazioni, solo con i materiali, solo con i tripli vetri. Dai da lavorare a centinaia di piccole imprese, falegnami, idraulici, pompe di calore, non sanno un cazzo! Quando ho parlato con uno di questi qui, non ci sono le pompe di calore, ma ha detto, basta, pornografia. Ma allora, è così, è così! Secondo la Carfagna, il trattamento riservato a Berlusconi non viene riservato nemmeno a Totò Riina. Esagerata, su! Cioè, mi piacerebbe capire come si svolge la vita sessuale o le abitudini, quali sono le abitudini private di tutti i leader italiani. Cioè il trattamento che è stato riservato a Berlusconi, che non è stato riservato neanche a Totò Riina, oppure ai clan dell''Ndrangheta trapiantati a Milano. Boom! Esplosa la bomba, hai sentito quando ha detto, quando la Carfagna ha detto sta roba? Voglio ricordare alla signora Carfagna che va bene le provocazioni, va bene tutto, però quelli stanno al 41 bis, stanno al 41 bis, signor Berlusconi si difende come un leone, combatte con gli avvocati, con i soldi e tutto, quelli stanno al 41 bis, cioè, ci sono delle proporzioni, no? Vabbè, intanto il PDL sembra aver ritirato questa proposta sulla diminuzione delle pene per il reato di associazione a stare in associazione mafiosa e nel contempo anche il Partito Democratico sembra avere ritirato questa proposta di legge anti-grillo, capito? Vabbè, chi se ne frega. Luciano da Pescara, buonasera. Ma è più interessante sentire come si chiama quel signore lì, quell'esorcista. Dopo lo sentiamo. Luciano da Pescara. Sì, sono in linea? Sì, fino a prova contraria lei è in linea, basta che parli. Sì, perfetto, io è da tanto che chiamo. Allora, volevo mettervi a conoscenza, siccome io ho vissuto tanti anni all'estero, sì, e volevo mettere a conoscenza che molte cose che dice Grillo, sì, sono proprio così. Sì, sono proprio così, certo. Ma su che cosa? Per esempio, su cosa? La differenziata. Io ti dico che io ti posso darti del tu. Ma io sono favorevole alla differenziata al 100%, ma si può ironizzare, si può scherzare sulle frasi di Grillo come lui? Io la facevo nel 78 a Wolfsburg, dove stavo io, dove c'è la Volkswagen. Io facevo nel 78 già la differenziata. Certo, ma in Germania la fanno. Era solo il differenziale della macchina. Ma hai capito o no? Hai capito o no, Parenzo? In Danimarca, Giuseppe. Danimarca. No, scusi, Luciano, aspetti. Senti. Ha ragione, soltanto in Italia. Solo in Italia, lo fanno ovunque, ma anche la Merkel, ma solo un cretino, ma solo una persona che conduce un programma che si chiama La Zanzara può non capire, è morto, anche la radio è morta, bisogna tornare al telefono senza fili. Beh, insomma, adesso bisogna questa... cretino, inquini, tu devi prendere semplicemente il rotolo della carta igienica che l'hai usato senza pulirti il sedere, perché sennò inquini, devi prendere il rotolo della carta igienica e comunicare con quello nell'orecchio dell'altro e si inquina di meno, anche alla Merkel. Luciano, lo fa, scusi, quando è che lei faceva, quando è che faceva la raccolta differenziata in Germania? Nel 78? Guardi, io ve lo posso dimostrare, non è che se l'è inventata Grillo, ma non è che se l'è inventata Grillo la raccolta differenziata, però no, voglio dire che ad esempio io abito a Pescara, sono 3 anni che abbiamo la raccolta differenziata. Vabbè. Io ce l'ho una nel 78, capisci che voglio dire? Quindi ci sono cose al di fuori della nostra portata mentale, più che altro, cioè cose che esistono in Germania. Ad esempio, io ho giocato una vita a calcio, sì. a me mi pagavano il taxi, la cassa mutua, la mutua, mi pagava il taxi per andare in ospedale e tornare per fare le terapie, mi rimborsavano tutto, capite? Ma in Germania lo fanno, certo, in Germania lo fanno. Io vorrei conoscere questa signora che ha scritto una cosa tremenda nei confronti di Stefano Esposito, un senatore del Partito Democratico a favore della TAV. Ieri è stato assediato Esposito perché voleva parlare, volevano democraticamente parlare. I notav lo hanno assediato, hanno tolto la luce, eccetera, eccetera, hanno minacciato come al solito. Una signora, una tale Soledad Sara delle Streghe, così si presenta su Facebook. Sara delle Streghe? Sì, non so se su Facebook o su Twitter, poco importa. Stefano Esposito fa la figura del servo di Caselli. Deve ringraziare che le BR non siano più attive, altrimenti sarebbe finito. Beh, arrestatela, eh! Arrestatela quanto prima! Prendetela! Prendetela! Prendetela! Se poi è una donna, perché magari è un uomo. Matteo da Como, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. No, volevo avvertirvi innanzitutto che sono passato dal Interlego e ho sentito riecheggiare pena di morte. Questo giusto per darvi un'info. Poi mi dispiace chiamare per una cosa così stupida, perché ho provato a chiamare tante volte. Però sì. Io mi chiedo, ma perché Parenzo continua a tirarla su questa storia della merda, lavarsi con la merda? Oddio mio, è un'ironia nei confronti della... Lo so che è un'ironia, però visto che è una persona intelligente... Ma si può scherzare o no? Oppure può scherzare solo Grillo? Oppure le parole forti le può dire solo Grillo? Le ironie e le cose da comico le può fare solo Grillo? Matteo, scusi. Assolutamente. E allora basta, no? Piace di più quando fa ironia su altre cose, su questa che è una... Vabbè, perché lei evidentemente sarà un ammiratore di Grillo, cosa vuole che le dica? No, io sono ammiratore del giusto. Spero. Lei è ammiratore del giusto, non capisco cosa vuol dire, sento poco. Mirko da Monza, buonasera. Sì, buonasera. Innanzitutto vorrei dire che sulla salute mondiale non si scherza. Sulla salute mondiale non si scherza. Quindi una battuta sulle pompe di calore, o uno sa di quello che parla, tanto sì. Male che se ne sta zitto. Sì. Noi scherziamo su tutto, anche sulle pompe di calore. A parte che ci ha scherzato Grillo sulle pompe di calore, non io. No, non ci ha scherzato, adesso è una cosa vera. Ha detto che la gente non lo sa e pensa che sia una cosa... e sa di quello che sta parlando, se no... Ma non mi interessa approfondire sulle pompe di calore, Mirko, non mi interessa. Vabbè, ma approfondite voi, mica sto... Sì, noi non approfondiamo, non mi interessa questo argomento qua. Ho ripreso un discorso di due secondi fa. Comunque volevo dire, su quello che aveva detto Napolitano, sul fatto di non istigare le persone alla violenza, quello che è successo a Brescia mi sembra un attacco abbastanza pesante. A Brescia dove, scusi? No. Ma quando c'è stato il comizio del PDL? Ma è passata già 10 giorni, di che stiamo parlando? Eh beh, io un po' che cerco di prendere la linea. No, Mirko, cosa vuole dire su questo? È che non mi sembra una cosa che sia costituzionalmente cosa? Normale. Cosa? Attaccare le istituzioni e attaccare la magistratura. Ma sì, ma ognuno può fare la manifestazione su quello che vuole, poi ci sono le leggi, ci sono gli elettori, eccetera, perché la magistratura è inattaccabile, non ho capito, non si può attaccare, non si può criticare? No. Visto che Berlusconi quando dice si criticava per Tortora, politica... quando si criticava per altre sentenze, si può fare? Quando uno vuole difendere perché pensa che Berlusconi sia innocente, non si può fare? Non si può fare una manifestazione? No, ma non si può neanche usare come alibi dire che lui è da 20 anni che è in politica e viene eletto. Ma quelli sono, ma se andiamo nel dettaglio è un altro discorso. Ci sono le indagini. Scusi, Mirko, non stiamo andando nel dettaglio, lei sta parlando del fatto che è una manifestazione sovversiva, giusto? Lui era ineleggibile già 20 anni fa. Va bene, secondo lei è ineleggibile, secondo altri no. Cioè non è, non è scritto nella pietra che sia ineleggibile Berlusconi, ha capito? Cioè non è già deciso, cioè non è, c'è gente che interpreta la legge in un certo modo, gente che la interpreta in un altro. Valerio Onida, il famoso saggio eccetera eccetera eccetera, per esempio, è uno di quelli che sostiene che non è applicabile quella legge per Berlusconi, che comunque Berlusconi non è ineleggibile per quella legge del 57. Sto parlando di Valerio Onida, se non ricordo male, vero Parenzo? Cioè, sì, io non lo saluto con timore, con deferenza, con timore reverenziale. Deferenza, sì. Mauro Corone è con noi dal suo studio. Dov'è il tuo studio, Mauro? A Erto, che significa ripido, molto scosceso. Erto, ripido, molto scosceso. Non hanno ammassato la gente del Vajon. Non sapete dove è Erto ancora? No, ma lo so dove è Erto. Io ho visto dei film, ho letto dei libri bellissimi su Vajon e mi sono commosso. Non mi fare la lezione, dai, su. Se mi chiede dov'è Erto, devo dirmi che non lo sa. No, lo so dov'è, lo dico per perché cazzo me lo chiede dov'è? Per il volgo, per il volgo, per il popolo, per la gente che è in ascolto. Il popolo dovrebbe essere informato anche da voi dov'è un paese dove hanno ammazzato le persone. Dove? Ah sì, a Erto, sì, certo. Quello è Lungarone anche. Sì, sì, ma poi nessuno ha pagato ancora per quella cosa lì. No, nessun TG e la radio ha detto niente nazionali. Quello, lasciamo perdere il pagare. Voi della radio, della televisione nazionale, ma noi ci occupiamo... non avete mai detto il 9 ottobre una riga che avevano ammazzato 2000 persone. Ma è roba vecchia, sapere che Belen è incinta, quell'altra partorito, quell'altra è mezza fatta e mezza no. Noi parliamo di Berlusconi, di Bersani. Ma si parla anche di lui, perché no? Senti, ma io non ho capito, ma è vero che vuoi smettere di girare per le trasmissioni? È vero che... No, sì. Mi sono rotto i coglioni perché non si può dire quello che pensi, se no ti arrivano denunce, ti arrivano insulti, ti arriva di tutto, ma io non ho la corazza buona perché quando mi insultano me li devo trovare di fronte. Ma scusa, se tu volessi dire quello che pensi, cosa diresti? Su che argomento, per esempio? Dai, ehi, Crucianin, lo so che vuoi trascinarmi. No! Dovevi venire a Torino, no. in quella bolgia di vanitosi, allora io ho detto quello che pensavo. No, ma lo so, lo... Dei premi letterari, dei critici letterari, dei critici televisivi, gente che viene pagata per guardare la TV o per mangiare a bere o per leggere, e poi sputtana chi non li va a genio. Chi è che decide se un libro deve vincere o no? Chi è che decide se un libro è bello o no? Questi convenitori del nulla, i quali dicono quello un libro fa schifo e viene avverato. La gente deve indignarsi e ribellarsi a questi deciditori del cazzo. Ma chi sono questi deciditori? Li sai bene, Cruciani. No, non lo so, chi sono? Non ti credo ignorante, non ti farò mai nomi e cognomi, se no mi becco la denuncia, perché non sanno difendersi a parole, sti qua. E allora ti citano... E poi chiedono danni morali se si guardassero allo specchio. Questi che sanno chi è un libro bello o no, chiederebbero i danni morali a loro stessi, l'hai capito? Ma chi sono questi qua? I critici letterari? No, pericoli, lo sai benissimo chi sono. I critici letterari, chi sono? No, sono televisivi, critici d'arte, di quadri, di pittura, di scultura, di libri. E gli editori? Di gastronomia. E gli editori? Quando lì mangia e beve come un porcello, poi dice qui si mangia male, nessuno viene più nel tuo ristorante. Ma che cazzo di potere diamo a sta gente? Questo ho detto io nelle confessioni ultime. Ma perché sono ultime? Ultime? Perché fra 8 mesi sarò morto, vi mando a cagare tutti. Come morto? Sì, mi tolgo dalle spese, cazzo. Cioè che cazzo fai, allora ti suicidi? Non ho più paura di denunce, di insulti, di drammi e di cose simili. Cioè ti suicidi? No. Sparisco, diciamo che sparisco. No, sui diciamo che sparisco, gosovigliate voi buoni a nulla. E uno non può dire quello che pensa se no viene imprigionato. Ma che dici? Tu puoi dire quello che vuoi, dai, su. Sì, prova a fare dei nomi. Siete un branco tutti quanti di code di paglia. Ma io faccio tutti i nomi che vuoi, codi, guarda. Io non ho paura di niente, non ho padroni, codi, no. Non ho padroni, io posso dire quello che voglio. Sì, la mia forza è questa, non ho padroni, non ho mai avuto padroni, né Berlusconi, né la sinistra, ma anche di Confindustria non ho padroni, non ti preoccupare, posso fare quello che mi pare. Posso fare quello che mi pare. Comincia a farlo allora. No, se sono convinto lo faccio, non è che comincia a farlo, se sono convinto. Hai capito, Cruciani, che qui non puoi dire Non puoi dire mona o mona, se no ce l'avrai sempre contro, hanno potere. Ma non io è vero. Ma, ma dipende di cosa parliamo. Gli editori, per esempio, chi è che ti sta sulle palle degli editori? Tutti gli editori, Elefante, sono associazione di delinquere, ma ho bisogno di loro se voglio pubblicare un libro. Tutti gli editori. Ma che vuol dire capire? Associazione a delinquere? Spiegami. Tutti gli editori che decidono se promuovere un autore o se affondarlo, in base a quello che vende, in base a quello che hai mai più sentito parlare dalle grandi case editrici di un grandioso scrittore come Maulensic. Come Paolo Maulensic, che è uno dei più grandi, hai mai più sentito nominarlo? No, perché vende un po' meno fuori delle palle. Ma scusa un attimo, ma perché dici che fra 8 mesi ti vuoi glissare? Che vuol dire? Cioè sparisci? Io voglio sparire e non voglio usare verbi come suicidio, come morte o come malattia. Non mi vedrete più a rompervi il cazzo. Ma durante questi 8 mesi voglio dire quello che non ho mai detto. Beh, comincia... tutti quanti, critici letterari, chi è che sa? Ma lo sai, chi è che può... 280 opere a un concorso letterario, ne scelgono 5 per i 5 finalisti... Tu mi vuoi far credere che leggono 270 opere in un anno? Ma no, neanche nella loro vita non le hanno lette. No, certo che no, non è così. E allora come fanno a dire i 5 della cinquina finale? Come fanno? È tutta una truffa secondo te? Non si può mandare sotto il nome di truffa. Concordato. Si dice chissà, io guarda che lo sapevo un mese prima che vinceva lo Strega. Lo sapevo un mese prima che Abbate vinceva il Campiello, lo sapevo un mese prima di vincere il Bancarella, cazzo volete! Ho capito, però tu con questo sistema ci hai campato, ti sei comprato le case, hai fatto ma fortuna! No, non ho comprato ma ehi, anche tu fai un lavoro! Ma certo! Ma anche i mafiosi si sono comprate le case facendo i mafiosi, ma non vuol mica dire di assolverli! Ma hai dovuto fare il personaggio anche per vendere i libri? Certo, signore mio, perché se non vai in TV a dire che sei morto non lo sa nessuno, perché l'Italia è un paese intelligente e pigro. Quindi si fa indottrinare dalla TV, fai un passaggio da fase e vendi 300.000 copie, però lui prende chi vuole lui nel suo passaggio, chi gli sta sulle palle non lo chiama, questa è la democratura. Ma che ne l'hai pensi? Capito, che ne no? pensi di Fazio? No, non ho niente contro Fazio, ho detto che c'è... in qualsiasi panorama, dalla Bignardi, da Fazio, da Licia Colò, da chi vuoi, se gli stai sulle palle non hai accesso, quindi non mi può dire che invita chi ha fatto qualcosa nella cultura, nei libri, nella pittura. Ma ha simpatia. Non ha simpatia di me, ma non me ne fosse un cazzo di lui, però bisogna dire le cose. Ma tu non sei mai andato da Fazio? No, perché non mi vuole. Perché non ti vuole? Ma non lo so, chiedetelo a lui. Eh no, dimmelo tu perché non ti vuole. Secondo me gli sto sulle palle, perché gli dico quello che penso, siccome lui finge, recita, è la parte del buonino. Sì. Forse, non lo so, temerà uno scontro, però non venite a dirmi che non è di parte. Ecco. Ma è di parte la sua parte, certo. Ma allora che non si sbraiti che noi proponiamo la cultura, proponiamo... Non si può fare così. La gestione, diciamo, della visibilità di chi fa qualcosa in Italia è in mano a quei pochi. E se ti vogliono rovinare, ti spazzano via. Posso dire queste cose? Ma o no? Certo, qui le puoi dire sempre. Io voglio capire una cosa, scusami, Mauro. Ma chi è che decide che un libro è dei convenitori? Oggi Fazio decide un sacco di cose, diciamo la verità, dillo. Chiaramente le fortune di un libro sono. Devi farmi dire ciò che vuoi dire tu. Dico che Fazio invita chi gli sta simpatico. Io non sono nel novero di questi simpatici e non mi vi. Ora non c'è. Però è la televisione pubblica, è la televisione pubblica. Sì, la televisione pubblica di chi? Di Fazio. Della democratura. Di chi? Di Fazio. È pubblica a parole. Ma lì ognuno gestisce il proprio campo. Se non sei dentro le simpatie sei fuori. Allora io credo, non dico Corona che è un povero ciarlatano, ma altri che ha eliminato dovrebbero aver avuto il diritto di andare lì a parlare di un loro libro. Sarà solo Gramellini nel pianeta che fa libri. Un libro più aiucoloso, a quanti gli è morta la madre? Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. ho le palle quando sento due giornalisti come voi del cazzo. Sì, del cazzo, vede, sì. Vede, quando prima diceva che si meravigliava per i 2.500 euro di cui il rappresentante della rivista civica vive, no? Sì. Si meravigliava di questo, vede? Io ho fatto 40 anni di lavoro e non ho mai fatto un'ora di straordinario perché volevo. E voi invece pidocchiosi, voi due giornalisti, sì, fate 5 mestieri per prendere 15.000 euro al mese e magari avete anche la moglie che lavora e qual è il problema? Il culo ai disoccupati. Vuole fare un giro con la mia macchina? Vuole fare un giro con la mia Porsche, forse? No, vuole fare un giro? Porsche. Vuole fare un giro? Guadagnate, vuole fare un giretto? Vuole fare un giretto con la mia vettura? Ma vuole fare un giretto con la mia BMW? Vuole fare... egoisti! Che non pensate, e quando dice ma i poveri esisteranno sempre, vuole fare, forse esisteranno sempre i poveri, con gente come voi che fanno quattro mestieri e lasciano a casa gli giovani. Siamo qui, la Zanzara, con David Parenzo in collegamento da Siena, Mauro Corona in collegamento da Erto Vajont, autore di Confessioni Ultime Scatenato. Corona, si può dire che Fazio è una mafia? Una che? Una mafia. No, no, non dico, io non dico nulla di Fazio, registro dei fatti. Beh. Non so chi è, né se non vi... Dico che invita chi gli sta simpatico, quindi essendo una TV nazionale, sì, non dovrebbe fare differenze. Non dico, ma non è che può intervistare tutti, non è che può invitare tutti. Chi reputa che abbia... Non che lo reputi lui, che lui non reputa nulla, ma se parliamo di scrittori ce ne sono di che non ha invitato. E perché secondo lei? Perché gli stanno, non sulle... lo so, gli stanno sulle palle, che non lo so, ma allora non si venga a dire che è imparziale o che non è fazioso. Ho capito, ma gestisce la trasmissione come una piccola mafia? Non mi farà mai dire che lì c'è una mafia, se no rischio una querela e una denuncia. Ecco. Dittatura sua, è un feudo suo, dove non entra chi non è simpatico a lui. Un feudo? Finito. Ma crela, lei ha paura delle querele, ancora Corona, no, ha paura delle querele. Senta, ho paura di nulla, anzi... Ho paura della rottura di palle, no? Che poi ti creano le querele, devi trovarti l'avvocato, ma siccome ho ancora 8 mesi di apparizioni pubbliche, non ho più paura neanche di della parana. Se mi processassero domani mattina sarei pronto, ma c'è una trafila che ti rompe la vita, quindi voglio evitare. Ma scusate, ma perché? Dove ha deciso di sparire dopo 8 mesi? Dove va? Ma che bello scoop vorresti, eh? Se ti dico dove vado mi trovano anche lì, non voglio più che... Come Robert Falzer, finirò in un manicomio, nel manicomio della natura, e morirò lì il giorno di Natale. Ma perché non sopporto più questo combattimento ad armi impari e feroce per stare a galla con un lavoro onesto. Lei dice che mi sono comprato le case. Una casa, cazzo! Una per i miei figli dopo aver mangiato merda tutta la vita! Ma io non ho detto mica che hai fatto male. Hai detto le case, quali case? Una! E non ne ho trovato una con vista Colosseo che me l'hanno pagata gli altri. Quella di Scaiola. Hai capito? Non solo quella, ce n'è a Monte Carlo, a Innsbruck. Sì, io me la sono guadagnata parola su parola. Ma chi ha detto il contrario? Nonostante Fazio. Ah, ecco. Diciamola tutta. Ma Grillo ti sta deludendo. Grillo ti sta deludendo per quello che fa. Mi sta deludendo. Io non sono mai, cioè, ho simpatizzato per alcune idee di Grillo, sì, per esempio non certo quella di eliminare l'euro, però mi sta deludendo adesso questa poca chiarezza, queste lotte fra di loro, questo mi stanno un po' del... Io sono bersanista, ve l'ho detto mille volte, sì, ma sì, anche Bersani è dato una tira molla, un altro è che finito. Cade sul palco, insomma. Ormai è finito, dai, cade sul palco, sono come le vecchie falci, batti e ribatti, batti e ribatti, hanno solo più il nome la costola della schiena e basta. Epifani, quello che cade sul palco. Ma sì, hai sentito le pompe di calore che dice Grillo, che nessuno... I pompini di calore, che pompe, cosa sono queste pompe di calore? Ma che ne so, sono le cose che propone, che dice in Italia non le conosce nessuno, delle cose energetiche, come i pompini di calore, scusa Mauro. Ma non lo so che sono queste pompe di seta, voi li pigliate per il culo perché il vostro lavoro e vi voglio anche bene. Ma non ti pigliamo per il culo. Voglio anche... Però ve l'ho detto un'altra volta. Parenzo, torna a coltivare la terra. Parenzo, voglio dire a Corona che salverà la grave situazione della crisi sarà fare imprenditori di terra, punto. Non tocco più questo argomento. E questo lo sappiamo. Parenzo, che vuoi dire a Corona? Scusami Corona, voglio dirti due cose. Primo, ti abbraccio forte perché io ti amo. Vabbè. Non condivido un cazzo cazzo di quello che dici, ma ti amo. Ti mancherebbe. Se condividessi qualcosa vorresti dire che sotto quel cranio hai qualcosa che funziona. Primo, no, primo, ma oh, ma oh, senti, apparenza. Apparenza, se tu condividessi qualcosa di me, mi sentirei offeso, perché veramente non sarebbe il massimo. Primo, primo dato. Secondo, ti ho invitato su Rai 3 alla prima puntata del programma il 14 di giugno. Vabbè, d'accordo. E, no, e guarda che lì apparenza, lì se è in diretta veramente rischiamo di farci male, quindi patti chiari. Se vuoi che venga lì, non facciamoci male, perché faccio un casino che resterà nella epica storia della TV. Guarda, io sono in diretta, sarà l'unica puntata che farò, perché dopo sì, che mi piaceranno. Garantito che se te la tiri così è l'unica che farai, e forse anch'io l'ultima. Io ti invito, ma non devi rompermi i coglioni col fatto che ti censurano, perché non ti censura nessuno, amico mio, nessuno. No, lì ti rompo la testa se fai il coglione come lo fai adesso, e perché ti, lì siamo in diretta e mi sarai davanti, quindi non so se ci vengo davvero, per il mio bene e per il tuo. Io ti voglio, io siccome non condivido nulla di te, ti amo. Ha ragione Parenzo, perché tu per esempio dalla Bignardi ci vai. A Parenzo non ti mando a cagare, perché ti ho detto resta stitico, così ti si gonfia la pancia e ti si svuota del cervello di nulla che hai. Scusami, no. Mauro, però la Bignardi ti invita, non è che sei censurato. La Bignardi, se volete saperlo, adesso sì. Non ci vado più, perché è stata l'unica a darmi una mano a proporre i miei libri, capite? E perché l'unica, non ci vai più? L'unica che mi ha dato una mano col suo programma a far vendere qualche libro. E lì dovrò sempre rispetto e stima alla Bignardi. E perché non ci vai più? Perché ormai ho fatto 5 volte, diventa noioso, diventa... Augias? Ma Augias ha fatto una gara in bicicletta, quello che nessuno lo sa, la super la maratona delle Dolomiti, ci aveva la molletta sui pantaloni per non incastrarsi alla catena come gli anni 30. No, Augias ha un orario... Quando si approfitta della televisione si deve approfittare degli orari giusti. Cosa vanno a fare a Luna lì quando la gente fa la penichella su? Non conta un cazzo quella roba. No, lì, vero. Dai, ma invece cosa? Come si chiama l'altro che presenta i libri, Parenzo? Elkan, Alain Elkan. Uno che sposa la figlia di Anelli, cosa presenta? Presenta se stesso. Ma perché, scusa? Qui possiamo dire tutto! Tutto possiamo dire, cari ascoltatori! Corona, possiamo dire tutto! Diciamo delle cose tremende su... Noi possiamo, siamo liberi di dire qualsiasi cosa! Questo è il punto, capito? Qualsiasi cosa è la nostra grande forza, questa qua! Grande forza! Che cavolo! Vabbè, Mauro! Pronto? Sì! Ma che stai a fare? Niente, ma aveva suonato un altro oroscopo! L'altro oroscopo! Tu sei pieno di telefonini! No! Guardate che vengo lì di piglia calci in culo. Ma che piglia calci in culo? Perché io vivo in un posto che devo avere anche per l'altro il cellulare, che voi avete il numero. Sì, sì, questa siccome non l'avevo spento, ha strimpellato. Sì. Allora io ho detto, sono con le zanzare che mi stanno pungendo. Sai come si chiama la zanzara qui a Erto? Con una sillaba soltanto. La E, con la E aperta. E come mai? Non lo so, non ho fatto studi di dialetti. Ma voi siete la E. La E, noi siamo la E, ecco, ma la questo E. Scrittore che si è suicidato a Notre Dame contro i matrimoni gay, io non ma ci credo. Quello lì doveva suicidarsi prima. È stato un uomo inutile, proprio quello, perché non si possono sposare? Quello lì è un fanatico nazista, quella gentaglia lì. Bravo. Si doveva sparare prima quello lì. Bravo, bravo, bravo. Invece, per dirvi delle case editrici prima, che forse ho esagerato, Guido Morselli si sparò un colpo in tempia che nessuno lo pubblicò da vivo. Aveva scritto anche Roma senza Papa, un dramma borghese di Psipazi HG, e non ed è da morto, tutti lo pubblicano, adesso è esploso Guido Morselli. Però, poverino. Scusa, sì, però scusami Mauro, tu hai detto di questo signore che si è suicidato che si doveva sparare prima perché aveva delle idee bestiali, dici tu, no? Delle idee naziste, razziste, xenofobe, non lo so cosa. E a me non dà fastidio che due si sposi, si vogliono bene, possono sposarsi anche in 15, che discorsi sono di preservare la razza, uno deve andare solo con una donna, ma che discorsi sono, i discorsi dell'età della pietra questi qui? Vabbè, adesso sposarsi in 15 non è che possiamo fare la grande ammucchiata. Ma perché non ha la libertà di fare quello che volete? Invece non è da ammazzare o stuprare bambini o donne. No, vabbè, ma se certo. Due vogliono sposarsi tra di loro, cosa gliene dicono? Cos'è il Giovanardi che deve dire di no? No, beh, figurati. Ti saluto, fatti sentire, grazie. Sì, no, non mi fate più, se non mi rompete più i coglioni una buona volta. No, che non ti rompiamo i coglioni, ti rompiamo i coglioni continuamente. Ciao, presto. Ma se devo sempre fare rissa, lasciatemi pace. Ma dov'è la rissa? Che rissa hai fatto? Dai, ciao. Dai, buona vita, no? Ciao, pubblicità. Oh, senti, apparenza, se tu condividessi qualcosa di me, mi sentirei offeso, perché veramente non sarebbe il massimo. Io ti ordino, in nome del giudice dei vivi e dei morti, di uscire da questa serva di Dio. E il potere? L'acqua santa. L'acqua santa! È il potere di Cristo che ti espelle. Ti espelle! Padre Ildebrando di Fulvio, abbazia di Casamari. Uno degli esorcisti più importanti in Italia. Oltre a darvi consigli su come comportarvi, marito e moglie, se le cose non vanno bene, bruciare tutto, materassi, cuscini, perché dentro i materassi e i cuscini potrebbero annidarsi spille, nodi, il maligno. Oltre a dare consigli se le cose non vanno tra marito e moglie, padre Ildebrando di Fulvio dice che ogni tanto compare il demonio anche negli animali. E anche sugli animali accade questo? Anche sugli animali. Quindi ci può essere anche un disturbo diabolico sugli animali? Purtroppo. Le è mai capitato? È capitato ultimamente una ragazza che aveva il maneggio e a un certo punto era un tutt'uno tra lei e i cavalli, quindi sa, poi il cavallo si affeziona subito. Sì. E a un certo punto ha cominciato a sparare calci, a rifiutarla. Come si avvicinava? Questi correvano e sparavano calci. Il maleficio può essere dentro il cibo? Attraverso il cibo, attraverso le bevande, no? E quindi il mago fa un intruglio. Contruglio, però qui non parliamo di superstizione, cioè questo no. Cose vere. Certamente c'è la forza del maligno lì che viene diciamo contaminata questa sostanza, viene maleficiata e quindi data al paziente immediatamente si sente male. Non solo gli animali, anche il cibo e le bevande, come avete sentito da padre Ildebrando, possono essere contaminati, ed è un mago che fa un intruglio che si inserisce in queste pietanze e senti l'esperienza di una bambina. Per esempio c'è stato un caso che è raccontato qualche anno fa in un convegno nazionale, uno dei nostri confratelli, una bambina di 12 anni, ci è voluto per liberarla, addirittura il vescovo incaricò uno proprio apposta per quel caso là, adatto, sì. E dopo aver invocato la Madonna tanto tempo, finalmente riuscì attraverso la preghiera anche degli altri a sbloccare lo stomaco di questa poverina, la quale nel rimettere, ecco, diede mandò fuori un pezzo verde di qualcosa che allora immediatamente era l'oggetto, un pezzettino di carne che aveva mangiato in una di queste pietanze che le avevano offerto proprio per danneggiare i genitori in quel caso. Hai capito? Si esce fuori, hai capito cosa è uscito fuori? No, ma scusami, adesso veramente è inquietante anche questa aspetta, musichetta. Aspetta. Pronto? Davide da Piacenza, 800 24 00 24. Sì. Dica. Pronto? Volevo parlare un attimo con Parenzoli, sì, che è bravissimo a fare l'imitazione di Grillo. Però sì. Stufa, molto, molto stufato. Ma stufa sai perché? Mm. Guarda che c'è un timbro di voce che è antipaticissimo, quindi poverino, purtroppo gli riesce male, forse per quello, no? Ma perché non ci fa una bella interpretazione di qualcuno magari della sinistra? Io potrei dare qualche nome, no? Visto che lui è molto simpatizzante per Bersani, magari gli potrei dare il nome di una collega sua, oltre tutto nostra concittadina, no? La signorina De Micheli, che è al governo, è in Parlamento, anzi. E cosa dovrebbe fare, Parenzo, l'imitazione della De Micheli? Che vuol dire? Ma sì, fatevi della De Micheli, che sa che la De Micheli a Piacenza era assessore al bilancio, no? Sì. Con una cosa, con una caratteristica principale, sa che ha un buco di 10 milioni di euro in un'azienda. Mm. Eppure Parenzo queste quale cose azienda? La sua azienda, non ho capito. No, no, la signorina De Micheli è l'amministratrice di un'azienda, ok. E come amministratrice ha fatto un buco di 10 milioni. Vabbè, adesso non sono in grado di non contestare questi suoi come dati. Come chi se ne frega, scusi Parenzo. Ma allora, qual è il suo problema? Scusi Davide, non ho capito. Non ho capito bene qual è il suo problema. Questo Parenzo, così spiccatamente di sinistra, che a me sta anche star bene, no? Però se fosse un attimino, lui fa proprio il classico di sinistra, cioè lui cosa fa? Non ho capito, se fa l'imitazione di Grillo non va bene perché a lei non piace, qui devo va bene, se fa può fare anche quella di Grillo, può fare se a lei non di, piace l'imitazione, quando c'è l'imitazione cambia male. Radio, gli viene male, secondo per lei viene male, per altri viene bene, abbia pazienza, qui c'è, come dire, siamo nel campo del gusto, caro Davide. Ma no, ma non è tanto il campo del gusto, è il campo di avere la possibilità di sentire qualcosa che è diverso da Parenzo. Ma cosa vuol dire? Uno può fare l'imitazione di Paola De Michele, Kelly, abbia pazienza, ma che vuol dire? Non vuol dire nulla questa roba qua. No? Ma la conosce lei? La conoscono adesso sempre di più i telespettatori perché va in televisione, ma non è un personaggio tale da essere imitato. Abbia pazienza, Davide. E dove ti imiti buon Bersani? Ma Bersani, ma scusa, non ce lo imita? Ma scusa, ma perché lei deve dire a Parenzo che cosa deve imitare? Ma saranno cazzi suoi o no? Però sa che adesso è molto meglio sono le canzoni, no? Mi dica Parenzo, dica, perché Corone prima ha detto delle cose bellissime su di lei, no? Perché sarebbe stato ragionissimo, Corona avrebbe avuto paura se aveva dei pensieri come i suoi, avrei avuto paura anch'io sinceramente. Ma io non ho capito, scusi, signor genio della radio che telefona per chiedere imitazioni non pagate peraltro. Sì, quindi imitazioni su un suo nemico politico evidentemente, su una persona che lui non stima. Attenzione che io di nemici non ne ho, non ho nessun nemico. Vabbè, politico, guardi, a me non me ne frega niente di parlare in questo momento di Paolo De Micheli, dell'imitazione di Paolo De Micheli eccetera. Se a lei non piacciono le imitazioni di Parenzo o pensa che Parenzo sia troppo di sinistra, le dà fastidio, cambi radio, non ci rompe i coglioni. Beniamino da Frosinone, buonasera. Eccola. Buonasera. Uno a un certo punto deve liquidare così. Io l'abbraccio fortissimo, Davide, però abbia pazienza. Non è che uno può chiamare dicendo quello è troppo di sinistra. Scusa. Così ci mancherebbe altro. Se non lo facesse, cadrebbe il discorso della zanzara. Ci mancherebbe. Non è un problema, anzi. Il problema è che tanto poi vi possiamo liquidare anche noi dall'altra parte, basterebbe non telefonarvi, vi liquidiamo. Ma sì, ma insomma c'è la libertà di telecomando, la libertà, c'è grande democrazia. Ma infatti il bello è questo, per amore di cielo, però sarebbe bello che questa libertà di telecomando sarebbe avercela. In questo caso di pulsante, quando uno è in macchina e sta lì con la mano, quando non ha la mano sul volante perché è ricco e ha la radio automatica, ricco, poi non è che bisogna essere ricchi, insomma i comandi della radio sul volante, uno può cambiare stazione se non gli aggrada. È molto semplice, funziona il mercato sempre. Beniamino, dica. Buonasera, si sente? No, ma chi era prima a parlare? Scusa, non ho capito. Chi parlava prima? Maledizione, chi parlava? Ah, Davide, sì. Allora, Davide? Ha abbassato. Vabbè, Beniamino, ragazzi, non mi fate capire un cazzo però, Beniamino, su. Buonasera, allora sono un camionista, un paesino provincia di Frosinone, isola dell'Ire, vicino a Casamarila, no? No, beh, questo volevo scusi, però abbiamo di dire due cose. No, sì, benissimo, lei però è un camionista della provincia di Frosinone? Sì, isola dell'Iri, provincia di Frosinone, che è vicino a Casamarila, dove si dice c'è questo. Isola di Liri, sì, allora? Volevo dire, allora, due cose, per quanto riguarda il Papa, io domenica scorsa stavo a casa, non ci sto quasi mai, domenica scorsa c'ero, sì, per me non è un esorcismo, è una benedizione e tutto là, perché l'esorcismo è cosa diversa e va bene, questo qua. Per quanto riguarda questo prete, sarà da poco che lui sarà esorcista, è un po' un novello, ma ha scoperto l'acqua calda, c'è ancora di peggio, ci vorrebbe una trasmissione per intera per far capire questo grande male che c'è, insomma. In che senso? Quale male? Ma in che senso? Adesso io non so nemmeno quanto secondi abbiamo, ci vorrebbe mezz'ora o un'ora, una trasmissione intera per spiegare tutto. Ma io nel 1983, tanto per essere mi sono trovato a cena presso dei signori che hanno fatto, che sarebbero compari, ci ho battezzato un video eccetera, hanno fatto una messa nera, uno spiritismo qua là, e hanno fatto maleficio a una persona qua là. Io e mia moglie le dicevamo no, se cose non si fanno perché l'ha dovuto fare, lui diceva per invidia qua là eccetera eccetera. Vabbè, è lunga la cosa, devo abbreviare. Vabbè, non ho capito benissimo, ma che, di che stiamo parlando? Cioè lei sta dicendo che... di quello che ha detto l'esorcista là, cioè lei sta, no? Dicendo che c'è stato un caso di... Che lui ha scoperto l'acqua calda, c'è ancora più grande. Lui ha scoperto Moscerino, c'è l'elefante, è ancora più grande. Poi, ma cosa? Su che argomento? Ma sulle maledizioni, sulle bestemmie, sulle fatture. Sulle fatture? Certo. Perché che caso c'è stato lì a Frosinone? No, c'è stato il mio caso, che lui parlava come avesse fatto una fattura a un altro, un maleficio. Sì, ma perché lei che cosa aveva? Lei è stato posseduto dal demonio? No, non sono stato posseduto, sono stato, come dire... Fatto una fattura, insomma, è più grave ancora di essere posseduto. A e chi magari... l'ha fatta? A chi gliel'ha fatta questa fattura? L'ha fatta uno che gli aveva pure battezzato un figlio, si chiama Mario di nome, la moglie di Silvana, però non posso dire cognome, se no vabbè. Parezzo, ma di che stiamo parlando? Scusa, No, scusi, amico mio, io l'unica fattura che conosco è la fattura fiscale, l'unica. Altre fatture non ne conosco, francamente, chiedo scusa. Io ve l'ho già detto e ve lo ripeto, sono un imprenditore, non ho tempo da perdere. Sono terrorista. Il barone Colucci è con noi, buonasera barone! Oh, caro Giuseppe, come stai? Bene, candidato a Monopoli! Tu pensi che la vostra trasmissione ha sempre più successo! Vabbè, adesso questo lascialo dire a... No, lo dico io, scusi, ma lo posso dire? Barone, ma come va la campagna elettorale, barò? Guardi, Giuseppe, è formidabile, pensa sì. Un po' che ho avuto in poco tempo, in 4 giorni... 78.000 visualizzazioni. Vabbè barone, guardi che se non vince mi incazzo però, Cioè, io lo dico subito, se non vince con tutta la promozione che le ho fatto, no, vengo. No, guardi, io ti dico una cosa, che con voi in linea, con sì. Voi in linea, voi sai, in linea io sicuramente questa volta vinco, Meno male, scusa, se non vince un imprenditore. Sì. Un imprenditore che è capace di governare. Sì. E non sono io un impiegato, un professionista così, un sì. Medico. Sì. Meglio ancora un professore, non parliamo poi di un ingegnere meccanico. Io sono un imprenditore di qualità. Sì. A me governare il comune, niente, come fare una fumata di sigaretta. Addirittura. Più, nemmeno. Addirittura. Sì, come bere un caffè la mattina, diciamo, no? Bravo, io prendo un caffè e governo la città. E perché ho esperienza? Pensa un po' tu, Giuseppe, 45 anni di impresa. Scusa, barone, ma... Barone? Sì, barone. Scusa. Sì, dimmi, Parenzo, dimmi. Sì. Primo. Smettiamola di chiamarlo barone. Perché? Questa roba, ma è un barone. Perché ma che c'è? Perché se chiama uno gli dici proletario, a uno gli dici camionista. Vabbè, no, ma barone, ma barone. Scusami se ti interrompo. Dimmi. Chiamami imprenditore. Ma no, ma neanche sei... imprenditore, ma ti chiamiamo, non sapevi neanche come ma chiamarti. Ma tu lo sai, scusa, che il barone, sai che il barone ma ha... basta con barone, smettila di chiamarlo barone. Mi sta sui coglioni, i titoli nobiliari mi stanno sui coglioni, basta chiamarlo barone. Scusa Parezzo, sai che barone... E come vuoi chiamare, Giuseppe? No, io ti voglio chiamare barone. No, chiamami imprenditore in questo caso. No, ma che imprenditore? Ma che imprenditore? Io ti chiamo barone Colucci. Lo sai che ma qual è il simbolo del barone? Qual è il suo simbolo del baronato? Qual è il ecco, simbolo, il simbolo della sua, del suo casato? Qual è? Ecco, qual è? Io non te lo posso far vedere, perché se no ti anzi, se vuoi no, ti ma descrivimelo. Sì, praticamente è una corona con tre praticamente giri di coralli. Sì. Poi sopra c'è un marchio che è quello del casato. Sì. In più c'è il Vito, c'è il Vucci che vuol dire Vito Antonio Colucci. Pure, ma il marchio del casato è bello, qual è? Fatto bene, questo ne riviene praticamente da uno studio approfondito fatto con i miei antenati. Però scusa barone, ma il simbolo che cosa raffigura? Qualche cosa? Un animale? Un luogo? No, è una corona. Ah, una corona. Barone, ma è vero che tu hai uno zoo dentro una specie? Ma come no? Io sono lo zoo. Sai perché mi sono fatto gli animali? Perché? Perché un giorno mi dissero che più conosco le persone e più amo gli animali. Allora da quel momento mi sono cresciuti tutti gli animali. Ma veramente hai fatto uno zoo privato? Certo. Ma quanto è grande sto zoo? Saranno 10.000 metri quadri, ci sono 400 animali. 400 animali? Giorno... Prego? 400 animali, barone? Sì. Ma roba da pazzi, ma scusa. Senti, Giuseppe, parliamo di lavoro. Di sì, lavoro, ma aspetta, fammi capire questa cosa. 400 animali, 10.000 metri quadrati di zoo privato. Ma non ce l'ha nessuno in Italia una roba del genere? Sì, non ce l'ha nessuno, di fatto. Ma quanto ti è costato sto zoo? Com'è? Quanto ti è costato sto zoo? Ma è una cosa che ho incominciato a costruire circa 34-35 anni fa. Ma è una cosa pazzesca. Veramente, Giuseppe, ti invito a venirlo a vedere. Lo so, un mio amico ci è venuto, Gianluigi Nuzzi, mi ha raccontato delle cose fantastiche. Giuseppe, scusami se ti interrompo, chiamami imprenditore. Nuovo mito della zanzara, lo portiamo su un piedistallo a Monopoli, il barone Vito Antonio Colucci, lo vediamo, lo sentiamo alle prese qui durante la campagna elettorale. Vi voglio dire che lotterò sempre di più ove diventassi sindaco di questa città per cambiare. L'invidia è assai a Monopoli, ma me ne frega un cacchio, perché ti fa... Io vincerò e voi andrete a finire tutti nel baratro! Ma scusi, barone! Dimmi, ma, Giuseppe! Ma che vuol dire? Che vuol dire io vincerò e voi andrete a finire tutti nel baratro, barone? Giuseppe, ascolta! Dimmi. Adesso il problema è questo... Io desidero vincere, se tu mi dai una mano, devo concretizzare il primo festival internazionale della cultura mediterranea. Ma per che vuol questo dire? Voglio vincere, dammi una mano. Ok, io più di questo. È bella. Ma più di questo che devo fare? Spiegami che vuol dire che andrete tutti nel baratro, con chi ce l'avevi? Ce l'avevo con quelli che sono contro di me, che hanno Figlia. Perché non è che sono contro di me in quanto sono contro di me, sono contro di me in quanto c'è l'invidia a Monopoli, tu hai parlato tanto di invidia. Ma che ci fai, scusa barone, con questo zoo se vinci, come lo trasformi? A parte che mi dicono che 10.000 metri quadrati e 400 animali c'è spazio, c'è un piccolo spazio in realtà per ciascun animale. No, sono 400 animali, sono uccelli, non sono animali grossi. Che uccelli, tutti uccelli sono? No, tutti uccelli no, ci sono daini, lama, struzzi africani, australiani, americani, poi ci sono tanti altri animali, insomma, però sono tutti. Ma quanto vale? Abita. Quanto vale questo zoo? Ma può valere 4-5 milioni di euro, non credo che vale di più. Ma veramente stai dicendo 4-5 milioni di euro? Costruisci tutto il verde, costruisci tutti gli habitat per gli animali. Gli animali vanno rispettati. Vabbè, fammi un piccolo comizio di un minuto, barone. Allora, niente, io... No, un piccolo comizio, un comizio dei tuoi, un comizio alla Mussolini, perché ti piace molto il Duce, secondo me, vero, no, Parenzo? No, ho visto che è un tono... No, Parenzo, non è un tono... No, un tono quasi mussoliniano. Tu sei pronto, Giuseppe, sono naturale io, perché sento dentro di me l'amore, la passione, rispetto molto gli altri. E poi praticamente io riciclo, faccio il riciclaggio di materie plastiche, quindi sono un ambientalista. Scusami barone, ma una bella legge sulle coppie omosessuali la vogliamo fare a Monopoli? Dobbiamo riflettere. I froci, con tutto il cuore dobbiamo riflettere. Perché poi c'è da dire una cosa. I froci non ti piacciono. Pronto? Ascoltami, Giuseppe. Dimmi. Io a Monopoli praticamente non ho mai visto persone, diciamo, omosessuali, perché ma come non hai mai visto? Altre volte sono persone molto discreti, riservati, certo. Anche se ci sono, non si vanno a, voglio dire, non si fanno vedere in giro. Cioè, sono persone molto rispettose, l'ho detto pure praticamente, io credo che la gente quando si comporta bene è sempre una bella cosa. Io ho tanto rispetto, non c'è dubbio, per i diversi, per gli omosessuali, praticamente. Diversi, mica sono diversi. Mica sono diversi, però. Rispetto gli omosessuali, l'ho già detto 10 volte, vuoi che te lo ripeto? No. Ma che cacchio? No, per carità, barone. Va bene, caro, ci sentiamo presto, barone. Guardi, aspetto che mi... Anzi, se mi consenti, un minuto. No. Invito a Monopoli, perché Monopoli è una bella città. Lo so. A Monopoli c'è il turismo, poi ci sono... Ti invito proprio a venire. Ma che ne pensi di Berlusconi? Però, ascolta, ti ricevo come sindaco, Vediamo, speriamo. Grazie, barone, a presto. Grazie a te, ciao Giuseppe. Ciao bello, da così a così, ciao. Ma che vuol dire da così a così, Parenzo? Da così a così, cosa vuol dire? Io volevo dirgli una cosa, che l'unico modo per aiutare questo barone... L'unico modo è quello di mandargli un'ambulanza, secondo me. Dici? Ma no. L'unico... Stai attento che quello ti scatena addosso lo zoo con gli uccelli, eccetera. Ma cos'è lo zoo che ha? Non uno zoo privato, con i daini, i lama, una cosa pazzesca. Ma che lama, dai, ma sì, Davide da Milano, Davide da Milano, buonasera. Ah, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Ah, niente, volevo deludervi, perché la pompa di calore ce l'avete anche voi in casa. Sì. Giuro, ma cos'è avete il condizionatore? Quando butta fuori il freddo il condizionatore, quando butta fuori il caldo è pompa di calore. Gli è andato questo nome molto divertente, ma alla fine è meglio del calorifero e quindi ha ragione Grillo. Vabbè, d'accordo. Tutto qui. Ma non era questo in discussione. Piercarlo da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, volevo. Sì, ma... però deve abbassare la radio o spegnerla, Pierca, è su. Dai, vada. Prego, accomodatevi. Ma accomodatevi chi? No, mi scusi, sono un tassista e sto lavorando. Volevo grande, per caso, sì. Allora? Volevo chiedere a Parenzo un parere sull'italianissima ministra Chianese rispetto al fatto di oggi quando ha... rifiutato di stringere la mano. Sì, adesso sento meno, per caro. Lei vuole sapere da Parenzo cosa ne pensa del fatto che il ministro Chiang oggi non abbia stretto la mano al capogruppo leghista al comune di Milano, giusto? Ha fatto benissimo. No, ma stringere la mano, bisogna sempre stringere la mano, per caro. Ha fatto benissimo, dopo tutti gli insulti che le sono stati vomitati addosso da alcuni leghisti, ha fatto benissimo. Non è obbligatorio del resto stringere la mano, dire buonasera e creanza, ma stringere la mano a chi fino a un minuto prima, non lui in particolare, appunto, quello è il problema. No, attento, è politica la questione, non lui in come persona, ma quel mondo lì avrebbe dovuto prendere le distanze e invece no, quindi il ministro ha fatto benissimo. Però scusa, benissimo. Tu, ma non ho capito, a parte che non è chiaro, no, dal filmato detto, non è chiaro perché sembra che intervenga la guardia del corpo e lei non si rende nemmeno conto di quello che sta succedendo. Vabbè, non mi interessa, avrebbe fatto comunque dire buonasera e educazione, addirittura io ho detto mille volte che non darei mai la mano a Fiore, ad esempio, al signor Fiore di Forza Nuova, non gli do la mano, posso non dargli la mano? Ho capito, allora, ma quello è il ministro della Repubblica, quello è il capogruppo della Lega al Comune di Milano, abbia pazienza, non, dai. Allora, allora, non è in quanto quel capogruppo, non è in quanto quella persona, è in quanto che quel movimento non ha preso le distanze dalle cose razziste che le sono state vomitate addosso, e uso un attimo, un attimo. Sì. Va bene, Gino da Milano, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Faccio buonasera anche a Parenzo perché è il suo ospite, ma non lo meriterebbe questo. Ma cosa ha fatto adesso? Cosa ha fatto? Questo è naturale, io oggi ho stracciato la tessera del PD. E vabbè, allora che vuole? Ma mica Parenzo è il segretario del Partito Democratico. Ma che mi interessa? Dopo aver sentito Renzi in TV ieri sera, quello che ha detto, questo certamente non era la gioia di tutti, diciamo, quelli che hanno la testa. Tra l'altro Renzi ieri ha detto una cosa strana, che non è d'accordo con la TAV, ribaltando un po' alcune sue idee del passato, cioè sta diventando un po' paraculo sto Renzi. Certo, ma questo mica è andato a correre per che cosa, mi perdoni. Non farei la TAV, ha detto, non farei. Comunque vabbè, allora? Allora, ritorno a Parenzo, ma mi scusi, ma questo caboto, quando Parenzo mi dice che... Cabobo. Sì. Il ghanese assassino di Milano. Bravissimo. Sì. Quando Parenzo mi dice che comunque tutti devono subire un terzo grado di giudizio prima di essere accusati o condannati, e non si può parlare già di assassinio della situazione. No, non ha detto questo. Ma perché non? Ma lei non ha detto questo. Ha cominciato a dire poverino. Non ha detto questo. Cioè, mi pare non ha mai contestato la colpevolezza di questo tizio, che appare evidente a tutti. Insomma. Ma gli mancava, mi perdoni, gli mancava di dire a Parenzo che sto Bobo è stato certamente molestato e lui ha reagito di conseguenza. E questa... No, lei purtroppo non ha capito, ma non mi stupisce questa cosa che lei non abbia capito. Siccome non ha capito, dei cotton fioc e un po' di acqua possono aiutare la comprensione. Se non altro l'udito. Ma guarda che i cotton fioc fanno malissimo, in realtà. Certo. No, questo. Anche certamente altre situazioni. Ma scusi, che c'entra col fatto che lei in piena libertà ha stracciato la tessera del Partito Democratico? Mi scusi, cosa c'entra? Questo c'entra? Cosa mi interessa? Questo c'entra perché Perdon, lei sa che Don Gallo sta molto male. Come no, certo che lo so. Si è aggravato. Ma anche qui Don Gallo cosa c'entra? Continuo. Io penso che Parenzo abbia detto una preghiera per Don Gallo, perché Parenzo è un uomo veramente di vabbè, io non so se l'ha fatto, ma qual è il punto? Non ho detto nessuna preghiera, mi dispiace che stia male e lo abbraccio fortissimo e spero che si rimetta presto. Poi? Certo. Questo mi fa molto piacere che lei condivida il mio parere. Il discorso in generale è quello che quando si parla del PD, Parenzo sembra che gli si accendano delle lampade. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io soy stanco, come una muchachita, baila col ritmo bueno, non le si no prendo sueno, non le importa mucho. Francesco da Como, buonasera Francesco. Oh, buonasera, finalmente riesco a parlare con lei. Vada, dica. Allora, due parole a duro. Lei, se non sbaglio, è un giornalista, giusto? Sì. Ecco, secondo me ormai era un giornalista. Vabbè, questi sono... Oggi è diventato un venditore. Benissimo. Lei vende sì. Spazi pubblicitari e le sì. Viene molto bene. Sì. Dunque? Ecco, detto questo, sì. Volevo aggiungere un'altra cosa. Sì. Non so chi l'abbia scritto, però i soldi fanno l'uomo ricco. Sì. E l'educazione fa l'uomo signore. Sì. Lei a volte pecca veramente alla grande di educazione. Sì. Ok? Ma io le dico questo perché lei occupa due ore un canale radio, sì. Giusto? Una frequenza viene data dallo Stato, sì. Lo Stato siamo noi, sì. Ma lei ha la fortuna di avere questa possibilità di avere due ore tutte ma di che sere, sta parlando? Lei sta delirando, io non occupo nessun canale dello Stato, lei è pazzo, cioè, lei è semplicemente pazzo, cioè, non, cioè, no, è no, proprio no, tecnicamente, lei è tecnicamente radio, pazzo. Le frequenze radio vengono comprate con i denari, Un attimo. Pronto? Senatore Pagliari, buonasera, sono Cruciani. Cruciani? La Zanzara, buonasera. Buonasera. La disturbo, senatore? Sì, nel senso che sto mangiando. Ah, le posso fare una domandina così, mi scusi l'orario, è un po' tardo, come dire. Lei in questa giunta sulle immunità, no? Bisognerà prendere una decisione quando si porrà la questione di Berlusconi. Ecco, che ne pensa lei della questione della ineleggibilità? Proprio in una parola, è a favore, cioè pensa che Berlusconi sia ineleggibile oppure no, senatore? Pronto? Sì, non sentivo più. Lei pensa che Berlusconi sia ineleggibile oppure no? Io quando avrò studiato le carte e in giunta dirò quello che devo dire, fuori dalla giunta non mi pronuncio. Non si pronuncerà mai fuori dalla giunta? No. Però lei ha firmato una certo. Ma, certo. Petizione sull'ineleggibilità. Ho firmato perché politicamente credo che la questione sia assolutamente evidente. Sul piano giuridico, siccome di mestiere... Sì, fa l'avvocato. Faccio l'avvocato, sul piano giuridico adesso mi studio bene le carte. Però Poi mi pronuncio nella sede della giunta, perché è l'unica sede in cui mi posso e mi devo pronunciare. Certo, però senatore Pagliari, se uno mette la sua firma su una petizione sull'ineleggibilità... Sì, va bene, capisco, so già che l'Espresso ha fatto le rane, tutto quello che si vuole. Io no, non l'Espresso, che c'entra l'Espresso? Dopo aver studiato le carte. No, d'accordo, però se uno mette sulla sua firma su una petizione sull'ineleggibilità, vuol dire che secondo lei Berlusconi è ineleggibile. Lei ha fatto anche tutta una discussione giuridica nella lettera che io ho letto a proposito di Berlusconi, a proposito del 96 io ripeto, io non rinnego niente di quello che ho fatto, però rispetto a questo incarico e a come mi ce l'ho in questa sede, mi studio tutte le carte, sì. Anche quelle che prima non ho studiato, e mi pronuncio solo in quella sede. D'accordo, però rifaccio la domanda, per lei Berlusconi... Faccio pure la domanda finché vuole, la mia risposta sarà sempre questa, io è questa. Però, non è altra. Scusi, lei ha scritto, lei ha scritto una cosa, che alcune dichiarazioni di Berlusconi ricordano la P2 di Gelli, conferma? Sì, sì, ma io quello che ho scritto, guardi, io a Parma credo di essere stato quello che più ha ha avanzato critiche politiche nei confronti di Berlusconi, quindi sì. Non sono sospetto. No, lei, oppure. Lei però, se lei ha... conosce la mia storia, non sono sospetto. No, ma io non sto dicendo. Io però ho delle mie regole, quindi. No, ma io la rispetto questa cosa qua. Io la rispetto assolutamente, però le chiedo nello stesso tempo, lei pensa che alcune dichiarazioni di Berlusconi sono uguali a quelle di Gelli della P2? Eh? No, sulla giustizia? Io ho sempre detto che richiamano il patto per l'Italia di Gelli, l'ho scritto questo. Alcune dichiarazioni sono eversive di Berlusconi perché ricordano il patto di Gelli, giusto? Ma io l'ho detto più di una volta. Che no, ma beh, siccome è alleato suo, siccome Berlusconi è suo alleato, si pone un problema se lei dice che è come Gelli. Abbia pazienza, che alcune dichiarazioni sono uguali a quelle. Io ho detto questo, vabbè, dopodiché sa, lei vuole avvitare le questioni. No, avvitare, il senatore Pagliari, che c'entra? No, ma non è che, voglio dire... Va bene, comunque, la mia posizione è questa, le ho spiegata... Chiarissima. No, è chiarissima. Scusi un attimo, ma lei ha detto anche che alcune dichiarazioni che Berlusconi ha fatto, se le avesse fatte lei sarebbe già sotto... Quello che io ho scritto io non lo rinnego. Lo conferma dalla prima all'ultima riga. Quello che ho scritto non sono... E non mi vuole rispondere perché deve studiare le carte alla domanda se Berlusconi è ineleggibile o no, giusto? Certo. Però uno che fa una petizione, c'è un ruolo, voi lei poi può semplificare finché vuole. No, non è semplificare in questo caso, le può interessare, ma c'è, quando c'è un ruolo ci sono anche dei vincoli nell'esercizio di questo ruolo, e siccome questo è un ruolo istituzionale, però se mi pronunciassi adesso davanti a lei dovrei astenermi dal esercitare la funzione della giunta delle elezioni, quindi siccome io la funzione della giunta delle elezioni la voglio esercitare con lei non mi pronuncio. Però è anche vero, senatore Pagliari, no ma questo è chiarissimo, è anche vero che la sua posizione è cambiata perché siete alleati con il PDL, questo pure c'è la situazione più delicata. Ma poi, io non capisco, cioè uno poi può girare la cosa come vuole, la questione dell'ineleggibilità di Berlusconi è una questione che è all'esame della giunta. Sì, ma non può dire che prescinde dalla situazione politica, perché questo qua sarebbe... Io questa questione la ritengo una questione giuridica e la giudicherò in secondo diritto, per quel che ne capisco, punto e basta. Va bene, grazie senatore, grazie, prego, buona serata. Grazie, buona serata. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Lorenzo? Pizzicato. Però ha combattuto come leone il senatore Pagliari. Però devo dire una cosa, se uno, lo ripeto, io l'ho detto anche a lui, se uno scrive ineleggibilità, no, firma una petizione sulla ineleggibilità di Berlusconi e poi dice devo studiare le carte, c'è qualcosa che non funziona. No, ma è evidente che lui quello che ha scritto poi avrà, io infatti quello che gli avrei chiesto è questo, che se lui ha scritto una cosa, conseguenzialmente, dal punto di vista della logica, per forza voterà, cioè dal punto di vista proprio semplicemente, se no smentisce tutto quello che ha scritto, anzi invece la notizia è che ci ha dato, sì, è quello che io non rinnego nulla di quello che ha scritto. Aspetta, Francesco da Como vuole concludere in che modo, Francesco, che mi ha dato le mani? Concludo solo in questo motivo qua. Sì. Io posso anche sbagliarmi, però può dirmi al massimo, lei si sta sbagliando, ma non mi dà del pazzo. Ma non mi ricordo cosa ha detto, adesso sono stato preso da un'altra cosa. Perché le ho dato del pazzo? Perché le ho dato del pazzo? Perché dice che noi occupiamo frequenze pubbliche. Ma che dice? Noi abbiamo pagato per queste frequenze. Ci sentiamo domani alle 18:30. Ci si può trovare di fronte a che cosa? Quando si aprono i cuscini o materassi, se c'è un problema ovviamente diabolico. Si manifestano anche delle forme, non so, trecce o spilli, altre cose. La cosa che si consiglia di più è bruciare tutto, sperando che tutto termini lì. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sì, l'ho dato Gesù Cristo, sempre.